Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non torneremo su Dijsselbloem, qualcuno mi sta ancora scrivendo dell'olandese, ne abbiamo parlato ieri. Insomma, secondo me l'esempio era completamente sbagliato e anche offensivo in un periodo, se uno vuol fare il politico, in cui non mi sembra che l'Europa goda di tutta questa grandissima stima e consenso, e queste cose non aiutano. Ma andiamo sulle cose di oggi, e nello specifico parleremo oggi dello sciopero dei taxi, perché si è aperta anche una spaccatura con altre associazioni di categoria. Tra l'altro i rappresentanti tassisti che hanno lasciato il tavolo ieri sera hanno superato e stanno superando oggi dalle 8 alle 22, accesi fumogeni a Napoli, scritte su auto di con NCC, quindi di sostanzialmente autisti con di noleggio con conducente. E tra l'altro su questo devo dire che anche il ministro Calenda ha detto, insomma, l'accordo che abbiamo fatto è un buon accordo, la protesta è legittima, ci mancherebbe, anche perché l'accordo andava incontro a molte delle richieste proprio sugli NCC da parte dei tassisti. Ne parleremo. Per quello che riguarda invece gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, dovremo tornare sulla vicenda della TAP. Ricorderete quello che è il gasdotto che dovrebbe portare il gas e trasformare anche l'Italia in un hub dal Caspio alla Puglia. Ci sono 8 chilometri che riguardano l'Italia e contrariamente a quanto ci siamo augurati, praticamente oggi è arrivato lo stop ai lavori a Melendugno, in provincia di Lecce, su richiesta del prefetto di Lecce. Allora, nonostante vi siano le autorizzazioni, nonostante, diciamo, si tratti di espiantare 221 ulivi temporaneamente con le zolle, poi verranno ricollocati, perché c'è da costruire questo tunnel di 8 chilometri per evitare che il gasdotto passi, diciamo, sulla spiaggia, quindi non si veda. Nonostante questo, ovviamente, e questo dice anche lunga sulla capacità della politica, anche locale, di essere classe dirigente o invece di andare a soleticare solo così la pancia delle persone, ne siamo capaci tutti. Altri 13 sindaci pugliesi si sono recati nel sito del cantiere per sostenere la posizione del primo cittadino di Melendugno, Marco Poti. Una manifestazione di protesta potrebbe essere indetta per domenica prossima. Stiamo, ripeto, parlando di 221 ulivi che vengono rimessi lì, 33 già spiantati. E in questo modo blocchiamo un gasdotto di 877 chilometri, di cui solo 8 chilometri in Italia, 550 in Grecia, 215 in Albania, 8 in Italia, appunto, e 104 nel Mare Adriatico. Al di là dell'investimento anche italiano, il 20% della Snam, non è solo quello, c'è British Petroleum e altri, ricordo che l'Italia importa il 90% del gas che consuma e che copre il 50% del gas di tutto il fabbisogno energetico di questo paese. E non ne abbiamo parlato, insomma. Non serve che ricordiamo che quando si fanno altre opere, penso all'alta velocità, penso alla Brebemi, penso alla variante di Valico, si va a occupare dei terreni in maniera ben più intrusiva, ci sono le compensazioni, ma se il principio fosse che non si possono neanche spostare degli ulivi per poi rimetterli, bene, smettiamo di immaginare qualunque opera infrastrutturale in questo paese, perché allora io vi vengo a dire che l'ulivo non ha più diritti di un abete, non ha più diritti di un cipresso, non ha più diritti di una sequoia, che non so neanche se ci siano le sequoie nel nostro paese, immagino proprio di no, e via così, e di un tiglio, e di un larice, e così. Se questo è il problema, larice, tigli, abeti e querce che verrebbero reimpiantate, perché nessuno sta parlando di un abbattimento di 221 ulivi, ma tanto è il clima, no, per cui capeggiati dal presidente della regione Puglia Emiliano, che ripeto, invece che occuparsi del perché tanti migliaia di cittadini pugliesi vadano a farsi curare al nord, tema da niente ovviamente, con un esborso per la regione di 184 milioni di euro l'anno che la regione Puglia paga a altre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia in primis, per cittadini che li vanno a farsi curare, e la sanità di pertinenza regionale, non l'approvvigionamento energetico di un paese, perché parliamo dell'Italia, ma la sanità di pertinenza regionale, è ovvio che è più facile occuparsi di 220 ulivi da espiantare temporaneamente per poi essere reimpiantati, che non chiarire perché la sanità pugliese funziona così male che deve pagare 184 milioni di euro ogni anno di compensazioni per i suoi cittadini che vanno a farsi curare in altre regioni italiane. Ma è ovvio, quello vorrebbe dire far politica, questo invece vuol dire fare demagogia. Non ho problemi a mantenere questa tesi, perché questo paese non andrà da nessuna parte finché continuiamo a dire non nel mio giardino. E anche di questo ci occuperemo, perché appunto intanto ci sono fermati i cantieri, poi vedremo. Ancora invece parleremo anche di notizie positive, perché c'è, come oggi riportato da Sole 24 Ore, un segmento della borsa italiana dedicato proprio alle medie imprese, e mi riferisco al segmento Star. Medie imprese in questo paese vuol dire imprese tra i 40 milioni e un miliardo di euro, che ha messo a segno negli ultimi 15 anni un rialzo del 220%. Tra l'altro, scusatemi, una sovra performance, mi correggo, del 293% di rialzo a fronte di un listino che ha fatto un più 220%. Quindi il listino Star è andato molto meglio del listino complessivo della borsa italiana. Ci sono 600 case di investimenti. E insomma, se ne è parlato anche nella seconda edizione di Fed, il forum dell'economia digitale organizzato da Facebook Italia, iniziato ieri, ne avevamo già parlato col presidente dei giovani imprenditori Marco Gai, Facebook Italia e giovani industriali a Milano. Ma dicevo, da lì arrivano buone notizie, cioè che in realtà non è vero che la borsa sia solo una cosa negativa, anzi, non è vero che la borsa e gli investitori non premino le aziende, diciamo, dell'economia reale. E quindi una volta tanto possiamo parlare anche di un caso virtuoso. Qualcuno mi dice: questo paese non andrà dove vuole lei, ma si figuri, ma non facciamo il TAP, blocchiamo tutto, mandiamo dall'altra parte, basta, va bene così. A me basta un po' di coerenza, lo dico all'ascoltatore. Cioè, la prossima volta che abbiamo un problema di approvvigionamento del gas, come raccontavamo 3-4 anni fa con la vicenda ucraina, Kiev contro Mosca, basta non dire perché non abbiamo. No, allora, l'approvvigionamento strategico di un paese dell'energia è da sempre considerato al pari, diciamo, del settore difesa, ossia sono elementi di politica estera veri e propri. Se si ritiene che qualunque comune, qualunque, diciamo, governatore di regione, per interessi politici suoi e molto immediati, possa bloccare strategie di approvvigionamento energetico, va bene, decidiamo che a questo punto non si fa più nulla, perché non sono cose che pianifichi da un anno all'altro, da sei mesi in sei mesi, poi va bene. Qualcuno invece mi fa notare che le sequoie in Italia ci sono, chiedo venia, non sapevo che ci fossero le sequoie. Andiamo con le notizie in breve. Mi scrivono alcuni ascoltatori: guardi che 2 anni fa il gasdotto è passato da Valeggio sul Mincio, tra vigneti e altre coltivazioni, ora è tutto perfetto, meglio di prima. Scrivetemi, io non so nulla, adesso verificherò del gasdotto che è passato da Valeggio sul Mincio, deve esserci chiaramente. Però appunto, se hai la garanzia che te li rimpiantano, te li rimettono lì, ma io veramente, vabbè. Sì, vabbè, adesso arriviamo al gasdotto. Tra l'altro questo, oggi parleremo di non solo di ulivi, ma anche di viti. Alcuni di voi mi chiedono sul Vinitaly, certo che faremo il Vinitaly anche lì, perché quando c'è da parlare di gasdotto è brutto, sporco e cattivo, perché il gas poi nessuno si preoccupa di come arrivi nelle case, basta girare un tasto e il gas ce l'hai. Poi se devi raccontare come si fa a portare il gas e gli investimenti che devi fare, no, ci sono gli ulivi. Poi nessuno, per esempio, si chiede, faccio un esempio, ce ne siamo occupati la settimana scorsa, ma poi ci ritorno, l'utilizzo del territorio. Noi da sempre siamo tifosi del vino italiano, è cos'è, 18 anni che seguiamo il Vinitaly. Poi però uno va a vedere quello che è l'utilizzo del suolo, per esempio nella zona di Conegliano, del Prosecco di Conegliano, e magari un approfondimento fra poco ce lo faccio, a fronte di dati incredibili sull'aumento delle vendite del 120%, lì si stanno ponendo dei problemi grossi sul prezzo a cui vendi i prodotti, le bottiglie, e sull'utilizzo e lo sfruttamento del territorio. Allora, se il problema è il territorio, tuteliamolo sempre. Non è che siccome se uno fa prosecco va bene, se uno invece fa gas va male, a meno che uno non mi dica io non voglio più usare il gas a casa mia e quindi mi metto lì e blocco il gasdotto, ma dai. Allora, sa che non ho capito un commento. Barisoni, una pianta di ulivo non è un vitigno, e gli ospedali pugliesi che chiudono servono ai turisti che vengono ad intasarci. Non ho proprio capito cosa vuole dire in italiano. Dico solo che c'è un ambientalismo peloso, che se devi far passare un gasdotto va bene, se devi spianare colline, adesso ne parlerò, per fare viti, fermo restando che noi difendiamo da sempre la produzione di vino italiano, basta che venga venduto bene, non inflazionato, che non vada in bolla, che tutti a partire dai consorzi stiano a fare un lavoro che di valorizzazione nel futuro, non di prendere tutto e subito con le cifre che abbiamo visto, ok, e a quanto stanno aumentando i prezzi. Tra l'altro è difficile anche distinguere tra DOC ed OCG nel prosecco ormai, per come escono i prezzi alla bottiglia, dovrebbero uscire più cari quelli da OCG e meno cari quelli da DOC, non si capisce nulla. Allora il rischio qual è? È che andiamo a inflazionare, andiamo in bolla su un settore che sta tirando, e mi riferisco in questo caso al prosecco Valdobbiadene e Conegliano, andiamo in bolla su quello e poi il mercato non capisce più niente, perché delle volte la tendenza è quella di beccare tutto e subito. I francesi in questo sono più bravi, perché riescono a non bruciare, diciamo, un fenomeno di successo subito. Dopodiché il ruolo dei consorzi, visto che me lo chiedo, dovrebbe essere quello di spiegare anche agli associati: attenzione, non possiamo puntare a un aumento così forte della produzione, perché poi si va in bolla, e non solleticare il pelo agli associati per tenere, capito, il maggior numero di consenso possibile. Si chiamano strategie di medio termine e riguardano tanto il gas quanto il vino, così vediamo se l'associazione è chiara. Va bene, poi qualcuno mi chiede dei dati sul prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, li darò. Andiamo avanti con il resto delle notizie e partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale, perché su questo la Banca Centrale Europea oggi è intervenuta dicendo che l'inflazione nell'area euro ha di nuovo registrato un incremento e la ripresa economica si consolida in modo continuo. Però, precisa la Banca Centrale Europea, le spinte inflazionistiche di fondo restano ancora moderate. Questo è importante perché, come la Banca Centrale Europea dirà che le spinte di fondo sull'inflazione iniziano a essere insistenti, ci farà capire che tornerà ad alzare i tassi di interesse, che per noi sarà un problema non da poco, anche perché poi leggerò alcune stime su quanto abbiamo risparmiato grazie all'abbassamento dei tassi di interesse, ai tassi a zero in questi anni. Comunque, per ora la definisce moderata. Poi dice: stiamo attenti alla crescita mondiale, prevediamo che resterà sostenuta, sebbene modesta in termini storici, anche perché ci sono un insieme di fattori, tra cui le nuove politiche protezionistiche dell'amministrazione statunitense di Trump e poi le future relazioni tra Regno Unito e l'Unione Europea. Poi sulla vigilanza bancaria, Mario Draghi dice: la vigilanza della BCE sarà rigorosa ed equa, le banche mettano mano rapidamente alle inefficienze sui crediti deteriorati. Tra l'altro oggi le principali banche italiane, veniamo a sapere che le principali banche italiane hanno attinto circa 63 miliardi di euro nell'ultima asta di liquidità a lungo termine della BCE. Unicredit ha preso 24 miliardi, Intesa 12 miliardi, Crea 9 miliardi per conto di 146 banche del credito cooperativo, B per 4 miliardi, Popolare di Sondrio 3 miliardi e mezzo. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, oggi a firma di Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Prendere i soldi gratis piace a tutti, certamente alle banche anche di più, visto che poi, in teoria, dovrebbero rimetterli in circuito. La decisione del sistema bancario europeo di farsi dare in prestito gratis e a lungo termine 250 miliardi di euro dalla Banca Centrale Europea conferma sostanzialmente due cose. Da un lato, le banche si aspettano che molto presto il programma straordinario di aiuti e di finanziamenti per rimettere in moto l'economia e l'inflazione dovrebbe terminare, parliamo sostanzialmente di dicembre, ma anche dall'altro, che la fame di denaro, quando non costa, è altissima. Basti pensare che nel complesso, fra tutte le manovre straordinarie messe in moto per salvaguardare il sistema finanziario e bancario europeo, l'Europa ha speso la bella cifra di 2.300 miliardi di euro. Una cifra che, salvate le banche, almeno in parte, vista ancora le difficoltà del mercato, avrebbe sicuramente potuto essere utilizzata, e forse anche meglio, per rimettere in moto i prestiti e l'economia non soltanto in generale dell'Europa, ma soprattutto di quei paesi che continuano a soffrire più degli altri i differenziali con i paesi ricchi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, sì, alcuni di voi mi scrivono, guardate, è la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi. L'Italia sta pagando, grazie ai tassi di interesse bassissimi, nel 2017 pagheremo rispetto al 2012 20 miliardi in meno di interessi sul debito. Questo si deve, di questo dobbiamo dire grazie a Mario Draghi. Poi uno mi può chiedere, ma come mai con 20 miliardi non riusciamo avere un beneficio? Questo è un altro problema, ma stiamo pagando rispetto al 2012 20 miliardi in meno, cioè una manovra finanziaria in meno di interessi sul debito. Si va adesso a spanne da 75 sostanzialmente verso i 55 miliardi, sono 19 miliardi e 600 milioni in meno in base alle stime fatte oggi da Sole 24 Ore. Trovate l'articolo in prima pagina, l'apertura della prima pagina. La borsa, Milano guadagna l'1%, Parigi più 0,70%, Francoforte guadagna l'1,15%, Londra lo 0,20%, Dow Jones più 0,40%, euro su dollaro a 1,08%. Tra i titoli segnalo molto bene Ferrari più 4,20%, UBI Banca più 3%, Biper più 2,60%, Telecom più 2,5%, Case New Holland Industrial, CNH più 2,30%, come Buzzi Unicem, Fineco Bank più 1,90%, come A2A l'1,80% lo guadagna Salvatore Ferragamo. Il fronte opposto è rappresentato da pochi titoli: Poste Italiane meno 1,90%, Fiat Chrysler meno 1%, Saipem meno 0,30%. Allora, vedo molti messaggi adesso manca qualche settimana al Vinitaly. Adesso non è che posso fare la puntata sul Prosecco, ne parleremo quando parleremo di ulivi, di atteggiamento pseudoambientalista in questo paese. Andiamo avanti invece con l'Italia. E allora, già da domani è possibile che il Consiglio dei Ministri vada a prorogare la rottamazione delle cartelle, già approvato l'emendamento sui tempi, non c'è ancora certezza, si spera di portarlo a casa già domani. Segnalo poi la stima del Centro Studi Confindustria, che dice che la ripresa globale in atto dalla metà del 2016 non tradisce la tesi di grande vivacità, quindi il 2017 si candida a diventare il primo anno dal 2011 in cui le previsioni potrebbero essere non solo confermate ma addirittura ritoccate all'insù. Le ultime stime sulla crescita italiana del Centro Studi Confindustria sono dello 0,8%, prevede di poter ritoccare anche quelle italiane. Dice che questa ripresa globale trae forza dalla sua coralità, ossia vi contribuiscono, come non accadeva da anni, sia i paesi avanzati, compresi l'area euro, gli Stati Uniti, il Giappone, ma anche i paesi emergenti, mentre in questi anni abbiamo visto che era sopra tutti i paesi emergenti e gli Stati Uniti negli ultimi 2-3 anni a trainare la ripresa. Allora, i dati oggi diffusi dall'INPS, nel primo mese senza incentivi, dopo 2 anni di sgravi contributivi, ricorderete 2015, molto sostanziosi, fino a 8.000 euro all'anno per 3 anni, 2016 dimezzati a fino a 4.000 euro all'anno per 3 anni, primo mese in cui vengono meno gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, la disoccupazione a gennaio fa sostanzialmente come domande di indennità di disoccupazione crescono dell'8% rispetto a un anno prima. Quanto ai voucher, è interessante notare come a febbraio sono stati venduti 9 milioni di voucher, con un calo del 5% rispetto all'anno prima. Da ottobre è in vigore la norma sulla tracciabilità dei buoni per il lavoro accessorio. Ricordo anche che però i buoni sono stati cancellati col decreto legge dello scorso 17 marzo e fino a fine 2017 sarà possibile usare i voucher comprati entro il 17 marzo. Allora, una vicenda che riguarda invece la RAI in questo caso. Il direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, oggi, rispondendo a una domanda sull'applicazione del tetto di 240.000 euro lordi degli stipendi degli artisti, ha detto: attenzione, al momento siamo fermi alla delibera del Consiglio di amministrazione che entrerà in vigore entro aprile. Se non vi saranno novità, e se non ci saranno, non ci sono novità, e se non vi saranno, dovranno venire dall'esterno dell'azienda. Quindi, senza segnali esterni, traduco, il tetto scatta da aprile. (Oh) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo al primo nostro appuntamento e mi riferisco ai tassisti, categoria che premetto a cui noi siamo affezionati in tutta Italia, a parte il fatto che chi vi parla li usa per lavoro e non poco, ma sono degli grandi ascoltatori di Radio 24 e quindi va tutta la nostra, diciamo, simpatia di tassisti. Detto questo, sono una categoria produttiva, li trattiamo come tutte le altre categorie produttive. Torniamo allo sciopero di oggi, abbastanza inspiegabile visto le posizioni di molte categorie dei tassisti. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Pour me a taste of something good. Alcuni rappresentanti dei tassisti hanno lasciato ieri il tavolo e oggi stanno scioperando alle 8 alle 22, con la conseguenza che, da quello che ci viene riferito da molte agenzie, altri colleghi che pure non vorrebbero scioperare preferiscono non circolare per paura di ritorsioni. Qualche tensione c'è stata a Napoli, dove hanno acceso fumogeni, e poi anche vi sono state scritte su alcune auto. Che cosa prevede l'accordo di ieri? Prevede che per gli NCC, quindi gli autisti con conducente, scusatemi, le auto con conducente, confermato l'obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni corsa, a meno che non ci sia un pacchetto di prenotazioni. Attivato presso il MIT un registro delle piattaforme tecnologiche, Uber e altre, che potranno operare a patto che abbiano sede legale e domicilio fiscale nell'Unione Europea, cioè non possono avere la sede legale e domicilio fiscale dove cavolo fa comodo a loro. Istituito presso la motorizzazione un archivio nazionale dei soggetti titolari di licenza taxi e autorizzazioni per il servizio NCC, noleggio con conducente. I comuni potranno consentire ai taxi di svolgere servizi aggiuntivi come il taxi ad uso collettivo. È anche prevista la possibilità di monitorare tramite sistemi di controllo a distanza il regolare svolgimento del servizio taxi. Il ministro Calenda, che dice: abbiamo fatto un buon accordo, poi per carità protestare è legittimo. Ognuno a protestare è legittimo, abbiamo il nostro lavoro, il mio del Ministro del Rio, di prendere la prospettiva e il punto di vista dell'interesse del Paese nel suo insieme, e credo che abbiamo trovato un buon punto di equilibrio. Presidente dell'Unione Italiana Radio Taxi, principale organizzazione sindacale del settore, Loreno Bittarelli, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. È d'accordo con Calenda? Ma io sono d'accordo sul seguire un percorso che è iniziato ieri, è stato intrapreso ieri, e vedere dove ci porta. Sicuramente come punto di partenza direi che ci siamo, ci sono degli aspetti da chiarire indubbiamente, ma quello che ci è stato rappresentato ieri è semplicemente di una bozza aperta, così come ci è stato detto dal Ministro e dal Vice Ministro Nencini e dal Ministro Del Rio, a qualsiasi contributo positivo. Noi prendiamo atto intanto delle cose che ci stanno, dei principi sono contenuti in questa bozza di decreto interministeriale che a noi stanno a cuore, che sono la territorialità delle licenze e delle autorizzazioni, che sono il fatto che viene sancito l'obbligo per quello che riguarda i noleggi con conducente di stazionare all'interno della propria rimessa e conseguentemente c'è il divieto di sosta in suolo pubblico, e questi già sono i principi importanti. Poi si aggiunge a questo il fatto che è stato in qualche maniera sancito anche un obbligo per le piattaforme tecnologiche, chiamiamole così, senza fare nomi di qualsiasi tipo, che devono rispettare comunque, operare nel rispetto delle leggi, sia dal punto di vista operativo che dal punto di vista fiscale. Questo per noi è un elemento molto importante, perché oggi questo non avviene, non abbiamo nulla contro Uber. No, perché adesso ha detto lei, contro chiunque voglia proporsi nel nostro mercato, purché lo faccia rispetto alle normative vigenti. Visto che lei l'ha menzionato, Uber, se vuole. No, perché Uber, sempre che l'ho menzionato, perché Uber dice che è rimasto deluso dalla proposta del decreto. Questo dovrebbe essere già una controindicazione per dire a voi che è una buona proposta, perché se Uber resta deluso. È strano che si lamentano gli NCC e si lamentano anche i taxi. No, guardi, gli NCC che mi stanno scrivendo chiedono solo un po' di rispetto, non essere trattati come dei delinquenti, perché quello che abbiamo visto obiettivamente non è in alcuni casi accettabile. Però resti con noi perché mi interessa molto il tema, Bittarelli. Ho il meteo e la pubblicità e poi la riprendo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, 17:42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, al presidente del più grosso sindacato, diciamo, dei tassisti, Unione Italiana Radio Taxi, Loreno Bittarelli. Mi dica una cosa, però molti mi chiedono del servizio delle Iene di ieri su quanto dichiarano fiscalmente i tassisti, ma insomma, questo per carità vale anche per altre categorie, ma le posso chiedere una cosa, Bittarelli, per esperienza, quando è che obbligherete tutti i tassisti di questo paese ad avere una carta di credito? Perché non è possibile che io, se arrivo a Milano in stazione, in aeroporto, ce l'hanno quasi tutti, a Roma siamo al 50%, a Napoli non ce l'ha nessuno. Dottore, se vuole la porto a fare bancomat. No, ma io ho bisogno di pagare con la carta di credito, col bancomat. Possiamo arrivare, cioè, se dovete essere anche propositivi, potete dire che quello fa parte di un servizio e non me ne frega nulla se poi è tracciabile, ma tanto se uno dichiara onestamente quanto guadagna, chi se ne frega della tracciabilità, no? No, siamo d'accordissimo, tant'è che come molti di voi, molti ascoltatori sapranno, io oltre che essere presidente dell'Unione dei Taxi Italiani sono anche presidente del Radio Taxi 3570, che è la più importante cooperativa a Roma, forse europeo, forse mondiale, non stiamo a vedere questi dettagli. Noi abbiamo l'obbligo statutario, i nostri associati hanno l'obbligo statutario di avere a disposizione il POS per sistemi di pagamento con qualsiasi carta di credito e bancomat. E se qualcuno dei suoi associati risponde, come mi è successo, l'ho dimenticato a casa, non funziona e scarico, cosa faccio? Non pago? Per quello che mi riguarda ci sono delle regole nostre interne che prevedono dei provvedimenti disciplinari che vanno dai 30 giorni di sospensione del servizio per il primo rifiuto fino all'esclusione del socio. No, buono, non lo sapevo questo, adesso saprò. Assolutamente, ma non solo, poi dopo abbiamo la nostra app dell'Unione del Taxi d'Italia che coinvolge 56 centrali radiotaxi nelle principali città italiane, in primis Roma, che si chiama IT Taxi, attraverso la quale si può inserire la propria carta di credito, si può pagare direttamente senza che il tassista abbia il POS, senza necessità del POS. Quindi il cliente inserisce l'importo a fine corsa nell'app, diciamo, e il tassista accetta l'importo, chiaramente se è corretto, che gli viene inviato nel proprio terminale di bordo, e si chiude la transazione. Quindi questa è una cosa, a volte vantiamo tanto le app che vengono da oltreoceano, ma magari non facciamo quello che è un'eccellenza secondo il nostro punto di vista di tecnologia tutta made in Italy e che in qualche maniera funziona non solo in due città ma in 56 città. Se ci dimentichiamo forse troppo spesso di quello che abbiamo, dovremmo essere più orgogliosi dei nostri esempi, fermo restando che poi ci sono sicuramente anche delle lacune, però dovremmo essere più orgogliosi dei nostri esempi piuttosto che dei esempi che vengono da altre parti, che poi non sono sotto il controllo né delle regole né dal punto di vista operativo né dal punto di vista fiscale. No, va bene, ho capito, ma mi ha dato anche delle informazioni utili, qui c'è quasi un mio conflitto di interesse essendo utilizzatore di taxi, adesso so cosa rispondere. Senta, da questo punto di vista, ma io non ho capito, ma se gli NCC hanno confermato l'obbligo di rientro in rimessa, se Uber dice che la proposta è deludente, perché non dite che insomma è il massimo che siete riusciti a ottenere, no? Ma noi da sempre ci siamo in qualche maniera associati dalle forme di protesta inopportune secondo il nostro punto di vista, perché se c'è un tavolo aperto col governo, ritengo che prima... Lei ha avuto segnalazioni di associati che oggi non hanno svolto servizio pur non scioperando per paura di ritorsioni? Sì, assolutamente. Cioè, le sembra corretto? Cioè, uno può scioperare... Però non è che viene menato o insultato chi va al lavoro, no? È un diritto lo sciopero, è un diritto non scioperare. Ma dove siamo? Assolutamente, c'è un problema proprio, la questione è proprio matematica. Qui praticamente c'è tantissima gente che avrebbe voluto lavorare e non ha potuto farla per tutti i problemi che sappiamo che sono noti. La riprova di questo è che i tassisti che non hanno lavorato, ma oggi comunque alcuni hanno lavorato, non è stato come da qualche settimana fa. I tassisti che in qualche maniera hanno lavorato si sono barcamenati tra mille insulti e preoccupazioni. Ma la controprova che questo non è un successo di chi ha proclamato lo sciopero è il fatto che io sono stato personalmente questa mattina con lo scooter a Via dei Fori Imperiali, dove c'erano manifestazioni nazionali proclamate da 10-12 dei taxi, dove erano presenti, ci sono i video, ci sono i filmati, ci sono le foto, al massimo 150-200 persone. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è che i tassisti non hanno lavorato perché hanno condiviso le ragioni. No, perché avevano paura. Vede, Vittorelli, sai cos'è? È che chi di blocco ferisce, di blocco perisce, cioè vi sta arrivando addosso un atteggiamento che onestamente... io capisco le proteste, gli scioperi, ci mancherebbe, però voglio dire, se poi quello è il metodo, poi vi si ritorce contro, perché prima va contro gli NCC Uber, poi va anche contro i vostri associati che magari non erano d'accordo sullo scioperare. Ma noi sin dall'inizio abbiamo condiviso quello che lei dice, nel senso che non abbiamo mai aderito a ogni forma di protesta degli ultimi mesi, proprio perché c'è un tavolo aperto con il governo. Noi abbiamo sempre sostenuto, vediamo dove ci porta questo tavolo. Ci sono stati dei segnali positivi ieri sera nel tavolo con il ministero, dove ci hanno assicurato tutta una serie di principi che a noi stavano particolarmente a cuore: la territorialità, la regolamentazione del servizio, l'obbligo per il noleggio di stazionare all'interno della propria rimessa, il divieto di stazionare in suolo pubblico e così via. Quindi questo sciopero era assolutamente ingiustificato. Io vorrei chiedere alle sigle che hanno scioperato oggi, alla fine della giornata... Ma no, io le dico io cosa hanno ottenuto. Hanno ottenuto una cosa sola, come negli altri casi, e la ringrazio nel salutarla. Hanno ottenuto che tutti quelli che avevano bisogno di un taxi oggi, che non conoscevano Uber, gli NCC e quant'altro, lo dico per personale esperienza, hanno scoperto Uber, NCC e quant'altro, perché poi... Io capisco tutto, ma basta, no? C'è una trattativa, non si può bloccare una città ogni volta. Abbiamo visto di tutto, ma adesso, perché non piace ad alcune sigle bloccare di nuovo una città su un servizio, uno va a esplorare gli altri servizi. Rifletteteci, Lo sciopero è legittimo, ma teoricamente dovrebbe portare dei vantaggi a voi, non far conoscere a me Uber o gli NCC e poi appunto e minacciare chi non vuole parteciparvi. Grazie anche per la disponibilità e devo dire la ragionevolezza. Adesso non tutti i tassisti sono uguali, non tutte le sigle sindacali sono uguali, ci mancherebbe. Grazie al presidente dell'URI Loreno Bittarelli, andiamo appunto sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora, andiamo adesso sulla borsa. C'è un ascoltatore che giustamente mi dice, lei ogni volta dice allora, ha ragione, più lei me lo scrive più mi viene voglia di dirlo, ma non lo faccio apposta. Cercherò di correggere, di correggermi. La borsa più 1%, Milano più 1,14% Francoforte, più 0,70% Parigi, più 0,22% Londra, e Dow Jones più 0,40%. Poste italiane meno 2, Fiat Chrysler meno 0,80, molto bene Ferrari più 4,35%, UbiBanca più 3,12%, Biper più 2,80%, come Telecom il 2,5% guadagnano Finecobank e CNH, il 2,30% Buzzi Unicem, il 2,30% anche A2A, il 2% il rialzo di Hughes Net-a-Porter. Ciao Condina, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Ubi e Biper tra le migliori, però Ferrari. Eh sì, oggi è stata una giornata positiva sì per le banche, ma spicca soprattutto la rossa che è salita del 4,3%, ha toccato, ricordiamolo oggi, i massimi storici, a un passo da 66 euro. Cosa spinge il titolo? Essenzialmente due cose: una è l'attesa per il weekend ad Australia, dove si terrà il primo Gran Premio della stagione. Stando un po' insomma ai risultati dei test, la Ferrari potrebbe essere tornata competitiva rispetto per esempio alla McLaren. In più c'è anche un report di Citigroup, anche questo molto positivo. In estrema sintesi, Citigroup sostiene che nei prossimi 10 anni i volumi di vendite della casa di Maranello potrebbero addirittura raddoppiare, quindi prospettive positive e sicuramente oggi un balzo importante per il titolo. Allora, per quello che vedi che l'ho ridetto allora, devo cambiare espressione. Dunque, per quello che riguarda invece altri titoli, Biper Bank, diciamo Telecom anche molto forte oggi, più 2,60%. È nel giorno del consiglio di amministrazione e in attesa di Vivendi, no? Eh sì, perché ci sarà il rinnovo del board di Telecom Italia nell'assemblea di maggio, però il termine ultimo per la presentazione delle liste, come noto, il prossimo 9 aprile, quindi c'è un po' di movimento attorno, come sempre avviene attorno a questo dossier. Intanto il consiglio ha appena approvato i conti 2016. Poste invece, beh, abbiamo visto da un lato appunto Fiat Chrysler un po' debole, ma Poste meno 2%. No, guarda, qui c'è un po' di timore su quella che può essere la dividend policy dell'azienda, cioè la politica dei dividendi, le povere, no? Insomma, il dividendo che verrà pagato agli azionisti. Questo perché Caio, l'ex amministratore delegato, aveva proposto un payout dell'80%. Cosa significa? Che su 10 euro di utili, 8, l'80% venivano destinati a dividendo, che è un payout bello importante. Il timore è che, come potrebbe anche essere, sarebbe ragionevole il nuovo amministratore delegato abbassi questo payout, magari a un 60%, a un 50%. Da qui il calo del titolo in borsa. Allora, visto che parlavamo di Telecom, è appena uscito un flash d'agenzia, ritorna all'utile, quindi all'utile. Nel 2016 il gruppo ha chiuso con un risultato netto di 1 miliardo e 800 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 2,75 centesimi, ma solo per le risparmio. Faccio notare che il 2015 si era chiuso con una perdita di 70 milioni di euro. Però insomma scontava anche alcune partite straordinarie, l'utile senza quell'impatto sarebbe stato di circa 1,4 miliardi milioni di euro. Andiamo sui migliori e peggiori, voglio chiudere però su Sole 24 Ore, perché oggi c'è una dichiarazione del presidente del Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, e dopo il rinvio della riunione del board del consiglio di amministrazione che era prevista nei giorni scorsi, il Sole 24 Ore è pronto a riconvocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio 2016, sarà sicuramente convocato Ha risposto il presidente del Sole 24 Ore dopo aver presentato il piano industriale 2017-2020 al Consiglio Generale di Confindustria, che è l'azionista di riferimento del gruppo Sole 24 Ore con il 67%. Il titolo forte anche oggi, devo dire che ha chiuso in rialzo del 7,90%, visto che sono sui migliori e peggiori. CIA più 14, Bom Italia più 14,80, Conafi più 11%, Fronte Opposto, Softec meno 5,50, Fedon meno 5 e Beghelli meno 4,12%. Grazie a Ceo Condi, Radio Corriere Sole 24 Ore, GR24, ci sentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di TAP, ossia di come si può bloccare un gasdotto dal Caspio all'Europa per 220 ulivi, non da tagliare ma da spostare con le zolle e poi rimettere lì, e di come la politica, poi si lamentano dell'antipolitica, del populismo, ma se la politica deve lavorare sulla pancia e basta e non dare mai una visione, di cosa vi lamentate? Mentre alcuni mi dicono, ma il suo riferimento sulla vite, su quello che sta capitando a Treviso, a Conegliano, Valdobbiadene, sì, perché qua c'è un ambientalismo tutto unidirezionale. Allora, adesso arriviamo agli ulivi. Ho anche detto che se bisogna rispettare gli ulivi, allora non facciamo più, ripeto, non sono da tagliare, sono solo da spostare, allora non accettiamo più lo spostamento neanche di una quercia, di un cipresso, di un abete, di un larice. Ho scoperto che ci sono anche le sequoie, delle sequoie, mi scrive un'ascoltatrice al parco della Burcina Pollone, provincia di Biella, ci sono le sequoie, bellissimo, non tocchiamo più niente, altro che alta velocità, infrastrutture e quant'altro. E devo dire che in regia avete anche azzeccato la base. Allora, stop ai lavori a Melendugno, ce ne siamo occupati 3 giorni fa, su richiesta del prefetto di Lecce. Ma ha scritto un leccese, lo dico con massimo rispetto, dicendo: guardi che forse non vogliono spiantare provvisionalmente gli ulivi per non mostrare cosa c'è sotto, glielo dico da leccese, i rifiuti, io non so cosa ci sia sotto, però so solo che non stiamo parlando del nulla, ma questo nulla ha visto il capopopolo, presidente della regione Puglia, Emiliano, a far diventare una battaglia per l'ecologia lo spostamento provvisorio con zolle 220 ulivi. Ripeto, lo dico volontariamente, volutamente, non ho visto Emiliano impegnarsi in una battaglia analoga, visto che domani torna la nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi che abbiamo denunciato nella sanità in Puglia, anche del Consiglio regionale pugliese, e commentare mai il perché la Regione Puglia debba pagare Lombardia, Veneto ed Emilia 184 milioni di euro all'anno per i pugliesi che vanno a farsi curare al nord invece che farsi curare in Puglia perché non si fidano delle strutture pugliesi. Mi piacerebbe una bella battaglia di Emiliano anche su questo. Cosa non funziona nella sanità pugliese, dati alla mano, visto che è la terza regione dopo Campania e Sicilia per turismo, come si chiama in maniera anche impropria, sanitario? Che cosa non funziona? Cosa può essere migliorabile? No, è più facile fare i capopopoli su 221 ulivi. Oggi 13 sindaci pugliesi, che anche loro non hanno nulla di cui occuparsi, non li riguarda, ma per solidarietà si sono recati nel sito del cantiere per sostenere la posizione del primo cittadino di Melendugno, Marco Poti. Area quella di Melendugno dove non esiste l'abusivismo edilizio, dove non esiste, c'è un massimo rispetto del territorio, lo dico ridendo, o meglio con amarezza, perché uno deve andare a visitare anche certe aree. Gli 8 chilometri sono fatti per passare sotto la sabbia e non sopra la sabbia, sono 8 chilometri di un gasdotto lungo 877 chilometri che si sta costruendo, 550 chilometri in Grecia, 215 in Albania, 104 nel mare Adriatico e poi 8 chilometri finali in Italia. Dovrebbe portare il gas dal Mar Caspio attraverso la frontiera greco-turca per approdare sulle coste della Puglia, appunto, con una capacità di 10 miliardi di metri cubi l'anno, e correrà sotto la spiaggia a una profondità di 1,5 metri. È partecipato il consorzio TAP da Snam al 20%, British Petroleum al 20%, l'Azerbaigian al 19% e poi i belgi di Fluxys al 16%, spagnolo Enagás al 16% e 5% della la Svizzera Axpo. Perché questo? Perché il progetto del piano industriale energetico del governo è di trasformare l'Italia non solo in un paese, in un cliente che compra il gas. No, il gas a noi serve per il 50% del nostro approvvigionamento energetico, ma anche per trasformare l'Italia in uno smistatore, guadagnandoci ovviamente, non è che lo facciamo gratis. Ecco perché entrano anche gli spagnoli, entrano i belgi e entrano gli svizzeri in questo progetto. Anche perché noi importiamo appunto da Russia, Algeria, Libia e poi arrivano l'Olanda e la Norvegia. Faccio notare, Russia, Algeria e Libia, siamo a 2/3 del gas che ci serve, 62 miliardi di metri cubi l'anno complessivamente. Ora uno mi può dire, ma forse non avevano fatto tutte le procedure. No, perché l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente c'è. Era arrivata anche, non era arrivata l'autorizzazione del Dipartimento Ambientale della Regione Puglia, nominato però dal governatore Emiliano, ma quindi non capisco il problema, ma voglio fare l'avvocato del diavolo. Allora, Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. I lavori sono bloccati, giusto? Sono bloccati. Il prefetto ha detto che teme problemi di ordine pubblico. Sì, il prefetto, che, diciamo che adesso scusami perché tu sei pugliese, problemi di ordine pubblico che io non ho mai visto, quando per anni, penso lo si faccia ancora, illegalmente venivano espiantati ulivi secolari per essere venduti ai ricchi residenti del nord Italia. Andate a farvi un giro, diciamo, nel nord e scoprite quanti ulivi secolari sono nei nostri giardini. Delle volte hanno preso il posto dei nani da giardino, delle volte hanno i nani da giardino con sé. Lì non ho visto proteste. Prego. I problemi di ordine pubblico sono nati il secondo giorno, quando un centinaio di persone, fra manifestanti, attivisti no TAP, ma anche sindaci, esponenti dei 5 Stelle, hanno bloccato le strade di accesso dei cantieri. E quindi la polizia ha dovuto fronteggiare questa protesta. Molta gente, molti manifestanti si sono stesi per strada, hanno impedito il transito dei mezzi di TAP che dovevano andare appunto sull'area in questione per proseguire l'espianto degli ulivi, espianto che è cominciato lunedì. E quindi martedì si è creato questa situazione incandescente e il prefetto ha invitato TAP a soprassedire ai lavori in attesa che la situazione si calmasse. Poi però il giorno successivo, cioè ieri, il prefetto ha rinnovato l'invito a TAP a tenere le bocce ferme e, ricevendo una delegazione di sindaci del Salento, ha poi formulato un quesito al Ministero dell'Ambiente dove chiede se TAP ha rispettato tutte le prescrizioni e se può davvero procedere con l'espianto degli ulivi. Questa risposta il Ministero la darà nei prossimi giorni, anche se non vedo francamente cosa possa dire di diverso il Ministero, visto che ha già risposto alla Regione appena venerdì scorso, quindi non è passata che una settimana. E in quella lettera il Ministero, rispondendo alla Regione che chiedeva appunto delle determinazioni, interveniva il Dipartimento dell'Ambiente che diceva: per me dipartimento l'espianto degli ulivi non può farsi, dice, ma comunque resto in attesa delle determinazioni ministeriali. Bene, il Ministero diceva che TAP era in regola con le prescrizioni relative alla cosiddetta fase zero, quella dell'espianto degli ulivi. E ai sindaci, alla Regione, che poneva anche il problema delle fasi successive, quelle appunto relative ai lavori del microtunnel, il Ministero chiariva affermando che il microtunnel rientra nella cosiddetta fase 1 e 1B e che è normata da altre prescrizioni, da altre verifiche di ottemperanza. Però per l'espianto degli ulivi TAP era in regola, poteva farlo, poteva espiantare gli ulivi. Oltretutto il Dipartimento dell'Ambiente dice no all'espianto degli ulivi, ma il Dipartimento Agricoltura della stessa Regione Puglia, attraverso due sue articolazioni, l'Osservatorio Fitosanitario e il Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce, ha detto sì. Cioè il Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Puglia dice sì, il Dipartimento dell'Ambiente dice no, e noi dovremmo governare un paese in questo modo. Il Ministero dell'Ambiente italiano dice sì, il governo ritiene che sia un'opera strategica per il paese di approvvigionamento energetico. Domanda, tu conosci immagino la zona di Melendugno, no? Certo. Ecco, esiste per caso qualche costruzione abusiva poi sanata? No, perché voglio capire se improvvisamente stiamo parlando sicuramente il fenomeno dell'atollo della diciamo, Papua Nuova Guinea. No, il prego. Fenomeno dell'abusivismo è largamente presente. I sindaci fanno una battaglia ambientale, ma bisogna ricordare che il progetto di TAP non spiove dal cielo, la valutazione di impatto ambientale è stata, come dire, corredata da oltre 50 prescrizioni che TAP deve osservare, e su ciascuna prescrizione c'è l'attività di vigilanza che esercita il Ministero dell'Ambiente, la Regione, l'ARPA Puglia, cioè ogni prescrizione ha una sua struttura di controllo e di vigilanza. Però i lavori sono fermi. Il punto è che questa vicenda ormai è diventata politica, una battaglia. Voglio dire, ma io ci arrivo adesso. Questo è un programma che si occupa di economia. Ho capito benissimo che Emiliano voglia cavalcare la cosa. Ma un conto è cavalcare un tema per aumentare il consenso, tutto quello che vuoi. Poi ci sono le primarie del PD. Altra cosa è solleticare, accarezzare la pancia, il luogo comunismo delle persone, senza pensare che tu, quando sei presidente di una regione importante come la Puglia, devi anche dimostrare un certo status di politico. Non puoi ragionare come fa, diciamo, l'abitante X che è lì, diciamo, cosa farà questa TAP. Hai strumenti, dipartimenti che ti possono dire sì, si può fare o no, non si può fare. Però voglio difendere, diciamo, la posizione di chi manifesta. E allora ti chiedo, c'era la possibilità di spostare da un'altra parte, cioè a Melendugno va a toccare un'area di grande pregio, a me, fermo restando che passa sotto, eppure lì non mi fate parlare di quello che abbiamo letto nelle inchieste di questi anni, di quello che sono messo nei terreni, anche in Puglia, come scarti nocivi, perché questo ambientalismo peloso mi fa proprio ridere. Però dico, c'era la possibilità di fare altro, e uno dice, guarda, bastava spostarlo di pochi chilometri, non avremmo rotto le scatole? Ma guarda, quando anni fa furono proposte diverse soluzioni progettuali, il Ministero disse che Melendugno era la soluzione migliore, la meno impattante dal punto di vista ecologico e ambientale. Tutte le altre invece avrebbero interferito con l'ambiente. La Regione ha cercato di rilanciare una diversa localizzazione del sito, però ormai le scelte sono state fatte, sono state autorizzate da più livelli. Qui parliamo di una valutazione di impatto ambientale favorevole rilasciata a settembre del 2014. L'autorizzazione unica rilasciata dal MISE è di maggio 2015, quindi non di autorizzazioni né di ieri né di l'altro ieri, e i cantieri sono fermi e l'opera non riesce ad andare avanti. Allora mi scrive una scuotere: lei è il solito renziano, vuole prendere decisioni a livello unilaterale. No, io vorrei un paese un pochino più europeo da questo punto di vista, cioè si discute, si dibatte, si ascoltano le parti, così se poi un'opera di interesse nazionale, se io devo fare l'alta velocità o devo fare il raddoppio di una area, un'arteria autostradale, ascolto le parti, poi però devo decidere, perché è chiaro che chi se la vede passare dice no, io non la vorrei qua, ma nemmeno l'altro la vorrei. Si chiama NIMBY, not in my backyard. Certo che vorrei un paese in cui alla fine poi si decide, e questo quello che sta facendo Emiliano è il frutto anche di quella riforma allucinante dell'articolo 5 fatta a suo tempo dal centro-sinistra, che tanti danni sta ancora facendo. Però dico, a me basterebbe un paese in cui, una volta che il Ministero dell'Ambiente valuta e dà il suo via libera, una volta che vengono consultati tutti, poi si decide che l'opera è importante. Vorrei vedere se l'avessero spostata, diciamo, di 10 km più su, se non si sarebbero lamentati altri. Ma poi ripeto, sti cavolo di ulivi vengono rimpiantati, non vengono neanche venduti, non vengono neanche segati, vengono spostati con le zolle, messi e poi rimessi lì, e non è un concetto difficilissimo. Va bene, e questo va bene nulla, intanto i lavori sono bloccati. C'è qualche idea sui tempi? Perché adesso il prefetto di Lecce dice, paura, temo i disordini per gli ulivi, gente che si lega agli ulivi, va bene, però non si legava agli ulivi quando c'era da vendere illegalmente, vabbè. Si attende, una previsione non c'è, si attende questa risposta del Ministero, ma il Ministero ha già detto abbastanza chiaramente che TAP è in regola con le prescrizioni della fase zero. Sul microtunnel si vedrà, perché ci sono altre mieme, però l'espianto degli ulivi può farlo. La cosa singolare è che una delle due strutture della regione, del Dipartimento di Agricoltura, che ha dato il via libera, scrive nel provvedimento che questa è un'opera strategica e richiama appunto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Va bene, ma io penso, adesso voglio chiudere qui perché vorrei passare poi al professor Nucci che riavremo anche dopo il traffico. Io penso che ci sia una posizione di fondo, cioè non piace il gas se non quando ce l'hai in casa per scaldare l'acqua per far bollire la pasta, questo è il problema, ti dà fastidio la pipeline, ti dà fastidio l'aeroporto, l'infrastruttura, la rete ferroviaria, il pilone, perché tanto bisogna andare velocemente da un posto all'altro ma senza costruire, bisogna avere il gas in casa ma senza il gasdotto e via così. Allora teniamoci le centrali che lavorano a petrolio. Tra l'altro è un ambientalismo peloso, e qui spiego anche il parallelo, perché ripeto, noi saremo a Vinitaly, ogni volta che ci occupiamo di vino, ma guardate che perché non ho visto qualcuno protestare su quello che sta capitando per esempio nella zona del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Doc, E mi chiedete, ma perché fai il raffronto? Perché lì stanno aumentando la produzione, passano a 500 milioni di bottiglie. 500 milioni di bottiglie. Non ho visto nessuna manifestazione su quello, no? Tra l'altro ci sarebbe anche da capire come si stanno muovendo il consorzio, perché mi risulta che ormai costi di meno, guadagni di meno l'agricoltore che coltiva le vigne nelle colline asolane con lavoro manuale, sostanzialmente 15.000 euro per ettaro contro 18.000 per ettaro di che guadagna l'agricoltore nella pianura, perché stanno mettendo tutto a prosecco, tra l'altro secondo me con una politica anche assurda, ma ne parleremo a Vinitaly, in cui vai a svalutare, rischi di svalutare il bene, perché se produci senza dei limiti, con dei prezzi che ormai vanno e girano sulla qualunque, addirittura guadagna più qualcuno che produce prosecco DOC di un DOCG di Asolo, insomma, e lì i consorzi hanno le loro responsabilità, ma vi torneremo. Era solo il parallelo, che lì però va tutto bene, perché insomma l'uva va bene, il gas no, ho capito, vivremo bruciando litri di vino nelle caldaie e vabbè, saremo più contenti, almeno più ebri sicuramente. Traffico. Focus Economia. Oh, mi chiede un ascoltatore, ma lei è sempre arrabbiato? No, è che delle volte, ragazzi, parlare di economia in questo paese, tra scandali e massimalismi e luogo comunismi, non è facile, vabbè. Allora, professor Giulio Nucci, docente al Politecnico di Milano e prorettore del Polo Territoriale Cinese, buonasera. Buonasera a lei, radioascoltatori. È un anticipo quello che facciamo, un aperitivo, diciamo, perché la riavrò domani, il tempo sta scadendo, ma sta cosa del TAP, non so se ha sentito l'ultima parte del programma, mi sta facendo impazzire. Sentito. Qua siamo sempre alla cultura anti-industriale, no? Cioè anti-approvvigionamento energetico. Sì, no, ma condivido in toto quello che l'ha detto. Noi, i singoli individui, amano le comodità, purché le comodità non vadano a interferire in qualsiasi elemento della sfera vitale dell'individuo. Purtroppo in altri paesi, e questa è una grossa differenza, le infrastrutture strategiche per il bene della collettività si fanno e soprattutto una volta presa una decisione si passa all'esecuzione. A me sembra che questo sia un enorme limite del paese, però non ci sono solo note negative. No, infatti lei ha scoperto, ne parleremo domani, lei ha scoperto che c'è un listino di aziende, sono 70 aziende quotate nel segmento Star, che è andato particolarmente bene dal 2002 ad oggi, il 293% ha guadagnato il listino complessivamente? Assolutamente sì, che mi sembra sia rappresentativo del fatto che anche in Italia si può fare buona impresa. Ci sono imprese di tutti i settori, da Amplifon che opera nel mercato dei beni di consumo, Brembo che tutti noi conosciamo, Landi Renzo, imprese del digitale come iPrice, imprese che hanno attirato l'attenzione degli investitori esteri, perché occorre ricordare che oltre il 40% di coloro che hanno investito in questo segmento sono interlocutori stranieri, che hanno creduto in imprese italiane che hanno ottimi margini di profittabilità. Allora, io le do appuntamento a domani, se ce la facciamo, perché ho la classifica, lei verrà, per parlare di questo caso nel dettaglio, perché spesso diciamo la borsa non serve alle imprese, oppure gli investitori in borsa speculano, non guardano i fondamentali. No, il segmento Star, quello che lei ci sta raccontando, dimostra esattamente il contrario, anche perché, ripeto, sono la maggior parte di chi ha messo i soldi nel segmento sono stranieri. Le do appuntamento a domani, Noci, così racconteremo anche questo elemento positivo. Vedo lo scetticismo di chi è in regia. No, ce la faremo domani. Intanto, da Sebastiano Barisoli, le auguro una buona serata. Ci risentiamo appunto domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.